posizione dell'uomo nel creato. Allah, sia gloria a Lui l'Altissimo, che è il creatore di tutto ciò che non è uomo e dell'uomo, cioè dell'universo, nel sublime Corano descrive le modalità della creazione di Adamo da parte sua. Quindi, la dogmatica materialistica sull'origine della specie umana, che va sotto il nome di ipotesi evoluzionista, è priva di fondamento, essendo costruita sulle congetture e le cervellotiche illazioni di una creatura che nessuna esperienza ha avuto di creazione. Allah, rifulga lo splendore della sua luce, ha dato esistenza a ogni realtà creata per uno scopo ben preciso, sicché anche l'uomo, essendo creatura, è stato creato per svolgere un ruolo ben preciso nella creazione. L'esistenza dell'uomo sulla terra, come Allah sia gloria a Lui l'Altissimo docet, ha inizio con la coscienza di una missione e non già nel disorientamento. Infatti, per mezzo della rivelazione e in termini chiari ed espliciti, è stata insegnata all'uomo la via che conduce al successo finale, con la presentazione del modello di uomo nel quale si realizza l'umanità autentica. La temporanea durata della vita terrena dell'uomo nel mondo è il banco di prova della sua fedeltà al modello di vita rivelato da Allah, sia gloria a Lui l'Altissimo, come chiave di accesso alla felicità eterna nella vita futura, in ricompensa di quello che faceva, non senza peraltro l'intervento determinante della misericordia divina. L'uomo e la donna sono responsabili del loro comportamento e in relazione a esso riceveranno la loro ricompensa. Allah, sia gloria a Lui l'Altissimo, dice nel sublime Corano: «I credenti e le credenti si proteggono a vicenda, comandano il bene e proibiscono il male, eseguono il rito di adorazione e pagano l'imposta coranica, obbediscono ad Allah e al suo apostolo. Quelli avranno la misericordia di Allah. In verità, Allah è onnipotente e sapiente. Allah ha promesso ai credenti e alle credenti giardini sotto cui scorrono i fiumi, giardini dove abiteranno in eterno, e abitazioni buone nei giardini di Eden, ma il compiacimento di Allah sarà il massimo. Questo è il trionfo sublime». Corano, Sura 9, Ayat 71-72. Dice Allah nel sublime Corano: «A chiunque, uomo o donna che sia, si comporti bene e sia credente, daremo come ricompensa una vita buona in terra e nella vita futura daremo come ricompensa il meglio di ciò che facevano». Corano, Sura 16, Aya 97. E ancora: Allah ha preparato perdono e grandissima ricompensa per gli uomini e le donne che hanno fatto Islam, per gli uomini e le donne che credono, per gli uomini e le donne che obbediscono, per gli uomini e le donne che sono perseveranti sulla retta via, per gli uomini e le donne che fanno l'elemosina, per gli uomini e le donne che fanno il digiuno, per gli uomini e le donne che conservano la loro modestia, per gli uomini e le donne che menzionano molto il nome di Allah. Corano, Sura 33, Aya 35. Questi sono i modelli proposti da Allah agli uomini e alle donne, e la traduzione in pratica di vita di questi modelli costituisce la linea di riferimento su cui si baserà il giudizio finale. In questi insegnamenti viene data l'indicazione chiara della via che le creature umane devono percorrere per realizzare il successo nella vita futura, con il permesso di Allah rifulga lo splendore della sua luce. In questi precetti viene sancita in modo indiscutibile e con parole non equivoche la parità dell'uomo e della donna nello svolgimento del ruolo e delle funzioni assegnate a ciascuno dei due, ruolo e funzioni che nella loro complementarità sono finalizzati alla realizzazione delle condizioni ottimali di esistenza per l'individuo, la famiglia e la società.